that's a fact. It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years. A Pechino ci sono 9 milioni di biciclette, dice la canzone che abbiamo scelto per aprire questa puntata di Respiro interamente dedicata alla bici. Buongiorno da Cristina Carpinelli. Pedalare dunque, pedalare per andare al lavoro, pedalare per tornare a casa, per gioco, per passione, per necessità. In tempo di crisi gli italiani si scoprono ciclisti, ma la rivoluzione a pedali è un movimento lento che è iniziato tempo fa e che oggi comincia a raccogliere i suoi frutti. Si stanno infatti moltiplicando le iniziative per chi ama viaggiare in bicicletta, un turismo che non sembra accusare segni di crisi e che anzi, proprio per la difficile situazione economica, attira sempre di più giovani e meno giovani. A fare da volano negli ultimi tempi sono stati gli ecoincentivi concessi dal Ministero dell'Ambiente. Sentiamo di cosa si tratta nella scheda. Chi acquisterà una bicicletta nel corso dell'anno potrà godere di uno sconto del 30% fino a un massimo di 700 euro. Un acquisto che sarà possibile senza obbligo di rottamazione e che per la prima volta, oltre alle biciclette a pedalata assistita ed elettriche, riguarderà anche le due ruote tradizionali. Gli incentivi valgono anche per i ciclomotori Euro 2 termici o elettrici, in questo caso con obbligo di rottamazione di un ciclomotore omologato Euro 0 o Euro 1. La grande novità è però lo sconto per le biciclette. Compreso nel pacchetto di interventi statali a sostegno del mercato delle due ruote, la misura prevede un fondo di 8.750.000 euro da erogare nel corso del 2009 a chi decide di comprare una bici nuova. Ma come si fa ad usufruire degli incentivi? L'elenco dei produttori che aderiscono all'iniziativa si trova su www.miniambiente.it, sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Cliccando su News si arriva alla voce Incentivi alla diffusione di veicoli a basso impatto ambientale. Cliccando ancora su Listini si apre un lungo elenco, 3.154 mezzi, con marca, modello, prezzo di listino, IVA inclusa, e contributo del Ministero già calcolato. A questo punto, fatta la scelta, bisogna presentarsi per l'acquisto presso un rivenditore autorizzato. Ogni persona può comprare al massimo 3 bici, presentando il codice fiscale o la partita IVA. A tutto il resto penserà il rivenditore. Sono previsti incentivi anche per veicoli elettrici. Per l'acquisto di un motociclo elettrico o di un quadriciclo elettrico, con contestuale rottamazione, lo sconto arriva fino al 30% del costo del veicolo, fino a un massimo di 1.300 euro. Ci sono tante novità collegate a questi incentivi. Ad esempio, in Campania, per la prima volta, grazie ad un contratto di servizio sottoscritto tra la Regione e Trenitalia, il trasporto delle bici sui treni regionali è gratuito ogni sabato e domenica. Un accordo simile sta avvenendo, ma non è ancora del tutto concluso, anche in Puglia. È il segno che si sta cominciando a pensare anche a chi la gita fuori porta se la fa su due ruote, ma è anche il segno che il Sud sta cominciando a pensare a un turismo ecosostenibile che sempre più spesso arriva su due ruote, ovunque. E se è sostenuto e non ostacolato, c'è da giurarsi che farà arrivare tante altre biciclette. Succede già da tempo in Trentino e oggi l'ufficio Piste Ciclopedonali ha provveduto a rinnovare il sito internet che raccoglie tutte le informazioni utili a chi voglia percorrere il Trentino in bicicletta. Itinerari, guide, spunti, punti di ristoro, di assistenza, come gli ormai famosi bici grill. Il tutto per incentivare un turismo a due ruote. Dunque ci siamo partiti e ora non sarà facile fermarci, come conferma Antonio Della Venezia, presidente della FIAB, la Federazione Italiana degli Amici della Bicicletta. Perché abbiamo visto che anche nel nostro sito, sul quale abbiamo messo anche l'elenco delle marche, delle bici che sono scontabili, quindi che usufruiscono del contributo del Ministero, abbiamo visto un numero di accessi elevato. Ecco, il fatto che finalmente si sia arrivati a pensare anche alla bicicletta, no? Ad incentivare l'acquisto della bicicletta, è un buon segnale. Voi come l'avete letto? L'abbiamo visto come un buon segnale, come dice lei. E chiaramente è impensabile che un segnale di questo tipo sposti masse di persone, però è un segnale positivo, nel senso che c'è un cambio di approccio rispetto a questo, al tema della bicicletta, e crediamo che a questo dovranno seguire poi altre iniziative per affermare il ruolo della bicicletta come metodo di trasporto. Ecco, quali sono, per esempio, se ce ne può indicare alcune? Beh, intanto quello di organizzare a livello ministeriale, a livello governativo, presso un ministero, una struttura struttura che si occupi della bicicletta. In tutta Europa, presso il Ministero dell'Ambiente piuttosto che delle infrastrutture, c'è un soggetto tecnico amministrativo che coordina l'attività degli enti locali, definisce obiettivi, destina risorse e definisce anche standard tecnici per uno dei mali del nostro paese, che anche il codice della strada si dimentica qualche volta della bicicletta. E come sta andando? Insomma, voi state facendo in qualche modo pressioni perché questo avvenga? Stiamo facendo pressioni da molti anni su questo tema e indipendentemente dal colore del governo abbiamo visto una condizione molto tiepida. Però siamo fiduciosi, questo segnale che diceva lei prima del contributo può essere che sia appunto un segnale in quella direzione e che a questo seguono poi altri fatti. Noi diciamo che la bicicletta sia un mezzo moderno che guarda il futuro, perché con tutte le caratteristiche sappiamo, non inquina, non fa rumore, ma fa bene anche alla salute. Insomma, abbiamo, come dire, ormai studi, ormai certificati anche dell'OMS, che dicono che mezz'ora di bicicletta al giorno è un antidoto per malattie cardiovascolari, tutta una serie di altre malattie che insorgono nella nostra età moderna. Sì, però ci si sta spostando anche oltre, nel senso che c'è sempre più gente che viaggia anche in bicicletta e si aspetta anche dei servizi. L'Italia come si sta muovendo in questo senso? Si sta muovendo lentamente e si sta muovendo un po' a macchia di leopardo. Ci sono alcune aree del territorio nazionale che hanno capito che c'è un numero di persone che usa la bicicletta anche per vacanze, per ferie, per fine settimana, non solo quindi i tedeschi ma anche gli italiani, e quindi si è attrezzate di conseguenza a partire dalle province di Bolzano e Trento, partendo dal nord, ma abbiamo anche buone esperienze nel modenese, nel ferrarese, in alcune province della Lombardia, anche in Piemonte. La regione Piemonte ha fatto cose discrete su questo campo, quindi molte regioni, molti enti locali stanno attrezzando. Questi incentivi che vengono dati a chi compra una bicicletta, in qualche modo rischiano di far fuori gli artigiani, comunque i piccoli produttori di biciclette? Purtroppo sì, perché l'accordo è un accordo tra ANCMA e Ministero, e quindi non tutti i piccoli produttori chiaramente sono all'interno di ANCMA, anzi quasi nessuno, quindi c'è questo rischio. Io la vedrei però in un'altra maniera, nel senso che potrebbe essere che i produttori si consorziano, quelli piccoli, e mettono sul mercato dei prodotti con i prezzi leggermente più bassi. Abbiamo già dei segnali in questo senso di piccoli artigiani che sono consorziati, quindi il risultato finale potrebbe essere che non avranno il beneficio del contributo ministeriale, ma avranno un mercato più ampio, perché si fa più cultura e quindi anche loro lavorano di più. Va bene, ci sono dei numeri invece che ci vuole dare per incoraggiare qualcuno che magari sta tentennando e però magari sentendo che stanno aumentando i ciclisti ha voglia di non fare più la pedalata della domenica soltanto, ma magari di andarsene in giro proprio su due ruote sempre? No, stanno aumentando le amministrazioni che prestano attenzione, sta aumentando la vendita di biciclette, secondo i dati ANCOMA appunto della Confindustria, rispetto all'anno scorso c'è stato un aumento della vendita di biciclette, quindi sicuramente io sono ottimista, non stiamo facendo passi lunghi come in altre parti d'Europa, ma stiamo facendo dei passi. Lei sa se ci sono progetti legati alle scuole proprio che incentivino l'utilizzo? Ecco, le dicevo prima, appunto, un soggetto nazionale che coordini attività e iniziative. Ecco, non c'è un'iniziativa nazionale su questo campo, anche sull'educazione alla mobilità nelle scuole, però c'è tutta una serie di miriade di iniziative che noi abbiamo raccolto in un sito che abbiamo chiamato FIAB Scuola e che appunto sta diventando un osservatorio delle buone pratiche in questo campo. Noi come FIAB proprio il 10 maggio abbiamo un'iniziativa, la 10ª edizione di Bimbi in Bici, che ha, come dire, la presunzione di far sintesi di tutte queste iniziative attraverso attività, animazione, ma anche attraverso la consapevolezza che i bambini sono un indicatore della mobilità urbana. Dove va bene il bambino, dove sta bene il bambino, stanno bene anche gli adulti, e quindi è un'iniziativa che noi proponiamo da molti anni e quest'anno in oltre 200 città, proprio per rimarcare il diritto del bambino a muoversi sicuro nel percorso casa-scuola. Quante persone pensate di coinvolgere domani con questa iniziativa? Noi pensiamo che almeno 100.000 bambini in bicicletta ci siano nelle piazze italiane. A questi vanno aggiunti i genitori, le famiglie, gli appassionati. Insomma, è una festa per tutti, però col bambino al centro, col bambino fino agli 11 anni al centro dell'attenzione. Verso che ora inizia? Beh, ci sono diversi orari in diverse città, noi abbiamo un sito dove ci sono tutte le informazioni del caso. Normalmente si inizia la mattina 10:30 e si finisce nel primo pomeriggio. Quindi le informazioni dove le troviamo per sapere? Nel sito della FIAB o che è www.fiab-onlus.it, oppure direttamente al sito di Bimbi in Bici, che è www.bimbimbici.it. L'aumento di appassionati della bici è testimoniato infine dalla nascita di catene alberghiere per bikers, che offrono servizi personalizzati per ciclisti, come per esempio informazioni dettagliate sui percorsi e sugli itinerari turistici in zona, guide cicloturistiche, convenzioni con negozi specializzati, menu per ciclisti, centri di benessere e palestre. Un mercato, quello del cicloturismo, che secondo le stime sarebbe aumentato nel nostro paese del 10% negli ultimi 5 anni, ponendo l'Italia al terzo posto dopo Austria e Francia come meta di riferimento per i cicloturisti europei, e questa finalmente ci sembra una bellissima notizia. Ora invece lasciamo il microfono al nostro Dario Ceccarelli per la sua spilla, che oggi parte dal passato e quindi dal ruolo che ha avuto la bici in Italia nella nostra storia. Muoversi, risalire la china, pedalare. Ogni volta che andiamo in crisi, la bicicletta, con la sua fresca giovinezza rinnovabile, ci viene in aiuto. Dopo la guerra permette a contadini, operai e artigiani di trasferirsi dai viottoli delle campagne alle periferie della città. In testa a Coppi e Bartali, ma il gruppo, quello che tiene sull'Italia, è di ultimi che sperano un giorno di essere primi. Durante la crisi del petrolio ritorna in auge, sospinta dall'impetuoso vento di rinnovamento di quegli anni, e ora, ai tempi dell'idrogeno e di Obama che mette in croce i macchinoni, la bicicletta è di nuovo modernissima. In città, in vacanza, per puro piacere fisico. Peccato che rispetto ad Amsterdam o la stessa Bolzano, le nostre principali città siano pensate come a delle trappole. Il ciclista non è un amico che può decongestionare il traffico, no, è un alieno da stendere con precisione nazista. Buche, tir, auto parcheggiate sulle poche piste ciclabili, assoluta indifferenza delle autorità al problema. Milano, che tanto alza la ruota per l'Expo, a tutto pensa tranne che a favorire la bicicletta. Vero, c'è il bike sharing, ma perché una mamma con bimbo deve noleggiare una bicicletta se sa che ha buone possibilità di essere travolta da un Porsche Cayenne che consuma come una centrale a carbone? La polvere sottile della politica ci confonde le idee? Bene, cominciamo a non dar più il voto a chi pedala contro. Bentornati a Respiro, io sono Cristina Carpinelli e dunque parliamo di bici, che più che un mezzo di trasporto è un modo di essere, lo sanno bene i ciclisti molto attivi che partecipano alla realizzazione di un ciclo giornale su YouTube. Questo signore bresciano che state per sentire si sta facendo ad esempio il giro di Cina e Laos proprio su due ruote. Al sud della Cina il vostro pedalino ha incontrato Francesco Gusmeri. Allora caro Francesco, cosa sta succedendo lì da te? Guardiamo un po' dove siamo. Brescia 16.000, Laos 180, Vietnam 300. Brescia non mi piace, è troppo lontana. Penso proprio che andrò in Laos. Ah. Salve a tutti. Un caro saluto a tutti gli amici dell'associazione Amici della Bici Corrado Fortanelli di Brescia. Un caro saluto alla lontana Brescia. Il viaggio va avanti. Finora è andato tutto bene e penso che, anzi spero, che in futuro possa andare altrettanto bene. Mi trovo qua in un villaggio a 20 km da Jingong, siamo nella regione subtropicale dello Sri Lanka e adesso sto facendo un giretto qua nel mercato. Ciao a tutti! Certo, non tutti si possono permettere queste passeggiate, però è vero che in molti, e sono sempre più i giovani, scelgono la bici per andare lontano. La bici diventa poi strumento per raccontarsi anche attraverso i video. Da qualche anno è nato infatti il Bicycle Film Festival, un festival cinematografico della bici. Come ci ha raccontato Giovanni Pesce, che si occupa proprio di questo festival? È un festival che celebra la bici attraverso film, arte e musica e che nasce 9 anni fa a New York, dove stava succedendo molto intorno a quegli anni, intorno alla bicicletta. C'era un vasto movimento, diciamo, artistico che partiva da Brooklyn, da East Village di Manhattan, che ruotava intorno alla bicicletta, in caso di dirlo. La bicicletta stava diventando, e ormai è diventata in questa città a New York, il simbolo della comunità artistica, un po' il mezzo d'elezione della comunità artistica. Spesso sono biciclette autocostruite, c'è stata un po' una confluenza anche tra la cultura della street art e la cultura dello skateboarding verso la bicicletta, per cui artisti, della generazione di per esempio Mike Mills o Shepard Fairey, che è quello che è diventato famoso per il quadro, il manifesto di Obama. Insomma, artisti che venivano dalla street art, che avevano avuto a che fare con lo skate, si sono buttati sulla bicicletta e hanno iniziato a produrre video, ma anche appunto disegni piuttosto che dipinti a tema bicicletta, e a New York si è iniziato a raccogliere questo corpus di produzioni artistiche. Da New York poi è diventata, si è espanso a San Francisco, dove anche lì c'era appunto un grosso fermento intorno alla bicicletta da parte della comunità artistica, e via via Parigi, Londra, Sydney, Tokyo. Attualmente il festival fa 39 tappe, quest'anno nel 2009 appunto ci sono 39 tappe, davvero in tutto il mondo, e il coinvolgimento delle comunità artistiche è diventato ovviamente molto più ampio, per cui ci sono anche artisti italiani che contribuiscono sia alla parte cinematografica che è la parte di arti visive di questo festival. Artisti di Tokyo, a Tokyo in particolare c'è stata una grandissima esplosione della bici da quando i giapponesi, i giovani giapponesi, soprattutto quelli già attivi magari sul mondo dello skateboarding appunto, si sono un po' convertiti alla bici, in particolare alla bici a scatto fisso, che è una bici di origine da pista, le bici che originariamente venivano usate nelle piste tipo Vigorelli, riadattate all'uso urbano, e a Tokyo c'è stata appunto una grossissima esplosione di ciclisti di nuova generazione per le strade. Tra l'altro a Tokyo la cosa strana è che fino a 5 anni fa quasi non si andava in bicicletta se non sui marciapiedi, adesso invece appunto le bici hanno ripreso le strade e si stanno facendo sempre più largo. A Tokyo in particolare il Bicycle Film Festival è una delle tappe principali, proprio è un evento di massa. Ma perché non si andava in bicicletta se non sui marciapiedi fino a qualche anno fa? Ma perché, come un po' in tutte le grandi città occidentali, la bici era una cosa tradizionale che stava, che aveva arretrato, che stava arretrando, è arretrato dagli anni 60, ricordiamo che anche qua in Italia la bici era il principale mezzo di trasporto urbano ed era tra l'altro uno dei principali sport, il ciclismo si contendeva con il calcio il primato, quindi c'era grandissima attenzione intorno alla bici. Via via dagli anni 60 agli anni 90 la bici ha arretrato, fino a quasi a scomparire appunto a Tokyo. Ormai in bici si andava solo sul marciapiede, era considerato poco sicuro andare per strada. Ecco, adesso questi spavaldi ragazzi che venivano dallo skate appunto si stanno riprendendo il loro spazio anche sulla strada, in mancanza ancora di politiche un po' decise da parte delle amministrazioni anche di quei paesi, anche in Giappone, per fare spazio alle bici anche sulle carreggiate. Diciamo che sono per ora questi ventenni, 20-30enni meno diciamo timorosi del muoversi per strada insieme alle macchine. Poi dopodiché in tutto il mondo, in verità in tutto il mondo occidentale, la bici sta crescendo moltissimo, cioè sta arretrando nei paesi come la Cina, dove si passa da essere diciamo i contadini appena inurbati sono fieri del loro arricchimento, per cui vanno in auto. Poi dopo qualche decennio le popolazioni si accorgono che in realtà in auto spesso non ci si muove molto bene, si è sempre in coda, è abbastanza stressante, si respira aria cattiva e si torna quindi ad usare un mezzo molto efficiente, molto agile, molto bello come la bicicletta. Questa è una dinamica che abbastanza si ripete in tutte le città, per cui New York, San Francisco, le città più avanti, Londra, Parigi, sono quelle che sono più avanti anche in questo processo di riscoperta della bicicletta. E in Italia come va sia il Bicycle Film Festival che quest'onda diciamo di cambiamento giovane nei confronti della bici? Sì, Beh, diciamo che l'Italia è più lenta, come in tante cose, un po' più lenta e più attaccata alle antiche abitudini di altri paesi, per cui questo boom della bicicletta si vede di meno, ma in città come Milano, Torino, insomma, la bici sta crescendo parecchio. Milano, Torino, Bologna sono le principali città italiane, ma anche, beh, poi ci sono in Italia delle gloriose esperienze in città di provincia, dove la bici è uno dei mezzi principali. Però diciamo il nuovo ciclismo urbano che il Bicycle Film Festival mette in scena, mette sotto i riflettori, ha il suo epicentro proprio a Milano, dove si sta muovendo parecchio. Ci sono dei riferimenti, cioè se un ascoltatore volesse avere più informazioni sul Bicycle Film Festival, voi avete un sito, avete qualcosa da consultare online? Sì, diciamo che anzi online si apre un mondo, se uno cerca video online, la comunità del nuovo ciclismo urbano comunica molto tramite internet, il Bicycle Film Festival ovviamente ha un sito dove si possono vedere anche un po' di trailer, adesso non in questo momento perché il festival in questo momento è diciamo dormiente, sta iniziando a organizzare il nuovo tour parte tra l'altro proprio a maggio da New York e poi prenderà appunto farà il giro del mondo. Al momento appunto c'è un sito dove si può vedere, iniziare a vedere qualcosina, ma via via che man mano che il festival viaggerà in giro per il mondo appunto si verranno caricati tutti i contenuti, tutti i video, si può vedere parecchio su www.bicyclefilmfestival.com. Prima di salutarvi vi ricordo che domani in moltissime città italiane si potrà partecipare a Bim Bim Bici, tutte le informazioni sono online sul sito della FIAB. Invece se abitate a Lodi avete tempo fino al 26 settembre per aderire al concorso dedicato a tutte le famiglie residenti o domiciliate nel comune di Lodi, senza limiti di età o numero di componenti, che verranno selezionate con un apposito bando pubblico. L'obiettivo è individuare 100 famiglie lodigiane disposte a mettersi in gioco lungo un percorso di cambiamento ed essere promotrici di un nuovo approccio alla vita urbana, più attenta ai problemi dell'inquinamento, della mobilità cittadina e dell'ambiente. Per 6 mesi dovranno impegnarsi a rinunciare il più possibile all'auto, preferendo mezzi di trasporto più sostenibili come la bici, l'autobus, il treno e naturalmente i piedi. Sarebbe bello se in ogni città ci fosse un progetto del genere, se ogni città facesse partire avventure come questa, perché come ci ha spiegato la storia, molto spesso le grandi rivoluzioni partono dal basso. È tutto. Vi ricordo che se volete potete scriverci all'indirizzo respiro@radio24.it. Buona giornata da Cristina Carpinelli.